piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Per me hanno molto valore i miei pezzi. Sono crani, principalmente di mammiferi. Il mio preferito è una cavalla. Ci sono legata perché ci ho studiato per fare un esame di osteologia veterinaria. Si tratta di una vecchia etichettatrice, facendo delle ricerche viene riportata, ho trovato che viene chiamato come marker, è un'etichettatrice arcaica che serviva per creare delle targhe su legno e su plastica. L'ho trovata appena fuori da un vivaio abbandonato. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Tutti gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Proprio oggi leggevo, perché sta cominciando a girare in rete, la storia di Daniele, un ragazzo autistico di 27 anni. La madre ha denunciato il fatto che vive recluso, come se fosse al 41 bis, ma non è un mafioso, non ha fatto nulla, soltanto un autistico per cui non esiste altra soluzione che tenerlo rinchiuso e sedato. È una cosa veramente triste, è una cosa che a me accade nella prassi. Persone come Daniele, che costano 500 euro al giorno per stare in galera, perché nessuno ha pensato prima alla maniera di includerli in una società che tenga conto anche della loro differenza, dei loro cervelli diversi. E poi per questo, per dare possibilità a persone come Daniele, o come mio figlio Tommy, come tantissimi altri che hanno cervelli diversi veramente composti, di avere una vita diversa, da rimanere chiuso in galera, perché questo in fondo conviene a tutti, perché in fondo quei 500 euro al giorno alla fine sono una bella sommetta. Ce l'avessimo noi per i nostri figli, cosa potremmo fare? Cose meravigliose. E infatti noi stiamo pensando a creare un atelier per cervelli ribelli. Per fare questo atelier abbiamo pensato a varie iniziative, tra le tante appunto questa, della meravigliosa asta fuori dall'ordinario che si terrà il 7 aprile a Milano presso la Casa d'Aste Cambi, che è la più prestigiosa d'Italia probabilmente. Asta sarà presentata il 2 aprile, il giorno della consapevolezza dell'autismo, giornata internazionale. E Radio 24 mi segue in questa meravigliosa avventura, che era un'asta per dare visibilità e conoscenza ai cervelli ribelli. Quindi abbiamo deciso di chiedere agli ascoltatori di mandarci degli oggetti che potranno partecipare a quest'asta. Se avete un bel oggetto, volete vendervelo, sarà valutato dagli esperti della casa d'aste Cambi e quello che voi pensate che sia giusto sarà quello che voi riceverete. Poi una percentuale di quello che voi quello che prenderà la commissione della casa d'aste andrà al nostro progetto per salvare la vita agli autistici. Come fare a partecipare? Abbiamo fatto un sito asta.cervelliribelli.it, ci sono tutte le informazioni. Voi andate lì, mettete la foto del vostro oggetto come hanno fatto i nostri ascoltatori. Poi se l'oggetto varrà lo metteremo all'asta, comunque sia sarà un oggetto di cui noi racconteremo una storia. Questa mattina abbiamo classificato alcuni oggetti tra quelli che ci sono stati mandati, ci hanno mandati tantissimi. Una raccomandazione, è un'asta importante, un'asta che vuole presentare oggetti che abbiano una storia, che abbiano una particolarità, che rappresentino una stranezza, non è il mercatino della domenica in cui mettete quegli oggetti da rigattiere che avete per casa. Può essere un oggetto che non ha un valore venale ma un forte valore emotivo, come appunto quelli che questa mattina vi racconteremo. 800240024, iniziamo questo strano e singolare esperimento di raccontare alla radio quelli che sono degli oggetti. Marinella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto grazie. Lei è stata una delle prime persone che ha risposto al nostro appello e ha mandato una foto. La foto la descrivo perché ce l'ho qui davanti. È una foto un po' sbiadita, c'è un signore in divisa, con aspetto marziale, un signore che in realtà dalle mostrine e dalle decorazioni che ha sul petto è facile individuarlo perché è un volto noto. È una foto di Yuri Gagarin, il cosmonauta aviatore sovietico che per primo viaggiò nello spazio il 12 aprile 1961 a bordo della Vostok 1. Lei come mai ha una foto di Gagarin? È proprio questa la stranezza. Ho scelto poi questo cimelio perché incrocia dei ricordi di infanzia sulle colline del Monferrato e un incontro che ho fatto per via, diciamo, del mio impegno contro le guerre. Allora, era all'inizio del 2015, si celebravano, come si può sentire, non solo sulle colline monferine, si celebravano, si commemoravano i 100 anni dall'inizio della prima guerra mondiale per quanto riguardava l'Italia, e stavo mettendo insieme delle storie di persone che si erano opposte alle guerre di aggressione, ma al tempo stesso mi arrivò la notizia che nell'Ucraina occidentale stavano perseguitando i soldati, i reduci, insomma, dell'Armata Rossa che avevano lottato contro Hitler, e quindi per una fortuita coincidenza mi trovai là in quel momento. E che cosa successe? Che un attivista che appunto stava seguendo le storie di questi ex soldati, ormai novantenni, in particolare uno che si chiamava Boris, mi disse: guarda, c'è una sede sociale che è stata vandalizzata da neonazisti e vai a vedere. E andai lì e la sede effettivamente era malconcia. Su un tavolo mi avvicinai ad un tavolo perché stavo parlando con i responsabili e mi caddero appunto gli occhi su questa foto, che è un ritratto a colori seppiati, sì, e dissi: Yuri! Nel senso che mi venne in mente, forse avevo visto la foto. Beh, diciamo che questa foto ufficiale Gagarin corrisponde un po' alla sua iconografia ufficiale, quella di lui glorioso. Ricordiamo, esatto, che c'era una guerra aperta per la conquista dello spazio, che vinsero i sovietici. Arrivarono per prima a mandare un uomo nello spazio. Almeno dentro notizia, perché ci sono notizie non ufficiose di tanti altri astronauti di cui rimangono le voci disperse nello spazio, captate dai fratelli Judica Cordiglia. Fu un episodio. Ma Gagarin lo disse perché andò e tornò vivo. Questa fu una grande storia. Senta, perché il ritratto che ha lei, che ricordo, allora, se ho capito bene, questo ritratto era in una specie di posto dove, che l'era andata a trovare in occasione di un attacco di neonazisti, gli anni erano il 2014, mi pare. Ero lì nel 2015, ecco, dall'inizio del 2015. Era un attacco, facevano dei gruppi neonazisti, quindi c'era già un preludio di una situazione che poi generalmente si è più diffusa e di cui si ha più notizia, nell'Ucraina occidentale. A Lutsk. Quando appunto questo è un posto dove gli attacchi erano contro i soldati sovietici che avevano liberato i campi di sterminio nazisti. Sì, erano contro dei centri sociali che si richiamavano a questi soldati, erano quasi tutti morti, soldati ucraini della. Però c'era un ricordo, sì, delle persone che avevano fatto questo tipo di operazioni. Senta, sì, ma perché questo ritratto è bucato? Cos'è stato preso? A bastonate, coltellate? Ecco, loro mi dissero: noi quando siamo arrivati qui abbiamo trovato appunto l'ufficio semidistrutto e il ritratto di Yuri era per terra, era anche bucato, non sapevano perché. Lei scrive nella sua scheda buchi da coltello, in effetti sembrano dei coltellate. Così mi dissero. Lo hanno sfregiato sul volto Gagarin. Perché? Ma perché Gagarin era il simbolo, diciamo, della gloria dell'Unione Sovietica, quindi il neonazista, rifacendosi in realtà a una visione nazi-europeista, era convinto che quello fosse un simbolo da abbattere. Poi c'è una grande confusione. Quando la cosa buffa è che appunto quando videro che avevo riconosciuto Yuri Gagarin mi vollero regalare questo ritratto che quindi tengo a casa mia. Perché? Perché nella mia infanzia, nel paesino di Rocca d'Arazzo, nel Monferrato, un posto al quale sono molto affezionata, in qualche modo negli anni 60, quando appunto scorreva la mia infanzia in quel paesino, mio papà, ricordo che ci parlava con ammirazione di questo Yuri Gagarin, e noi leggevamo Verne, quindi c'era comunque questa mitologia, no, dell'avventura. Ecco, diciamo quindi... c'è una certa similitudine anche con altri oggetti di pregio che so che saranno messi all'asta, tra cui delle tute di astronauti, quindi probabilmente in un pacchetto in cui ci sono le tute, i cimeli e gli astronauti, il ritratto di Gagarin che ha fatto questo percorso strano, sottoposto a una sorta di iconoclastia per un momento di impazzimento in cui quello che era il simbolo di una vittoria della Russia sovietica andava comunque oltraggiato. L'oltraggio si è fermato a alcune coltellate, quindi un Gagarin accoltellato potrebbe essere un buon tema per un oggetto messo all'asta. Intanto grazie Marinella, resti in ascolto perché abbiamo un'altra ascoltatrice, Lucia. Lucia, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Lucia. Allora, il suo oggetto ce l'ho davanti, ecco, apro, ho fatto una gallery e l'ho messa per adesso su Facebook, la faremo vedere. È un piatto, con una, diciamo, una ceramica dipinta, con una strana signora, con una pescatrice, non so bene, lei si è fatta qualche idea di cosa sia? Dunque, senta, questo piatto è sempre stato davanti ai miei occhi fin da quando ero piccolina e ho sempre chiesto perché veniva tenuto così in considerazione. Lei dove ha vissuto? Cominciamo intanto a localizzare questo piatto. Sì, sono di Lucca e il piatto mi hanno sempre detto che è un Montelupo. Sì. Perché i miei erano originari di questo posto, di questa città. Ma è una ceramica tipica di Montelupo, lo ha datato più o meno. È una ceramica tipica, sì, abbiamo sentito, abbiamo ascoltato anche vari giudizi di persone, siamo stati sul posto e ci hanno detto che appunto faceva parte di questa maiolica ceramicata di Montelupo. E somiglia un po', io sono umbro, somiglia un po' alle ceramiche di Deruta come colori e come tipo. Però cioè, l'hanno datata, più o meno l'hanno datata? Sì, XVI-XVII secolo dovrebbe essere. È singolare perché una donna con la canna da pesca sulle spalle del XVI secolo fa pensare. Lei ha fatto una ricerca storica, come mai? Abbiamo fatto una ricerca, ci hanno detto che oltre a questa c'era anche una cacciatrice, perché tanto è vero che mio nonno... mi ha raccontato questa storia, mi ha raccontato che il suo nonno aveva litigato con il fratello per la proprietà di questi piatti, che avrebbero dovuto essere due, la cacciatrice e la pescatrice. Quindi sono stati origine di una scissione familiare questi due piatti. Di una scissione familiare. Sono segnati da una tragedia familiare. Suo nonno e suo zio si sono accapigliati per chi si pigliava i piatti. Quindi avevano un valore... per la famiglia, perché due piatti, poi è singolare pensare un piatto del XVI secolo con una donna che va a pesca e una donna che va a caccia, che sono attività tipicamente maschili. E infatti queste invece erano femmine, erano donne. Lo zio si è preso la cacciatrice e se n'è andato e non si sa che fine abbia fatto. Ma lei l'ha mai vista la cacciatrice? L'ha mai vista? No, perché riuscire a riunirle avrebbe un valore sicuramente d'asta superiore. Maggiore. Ma lei non c'ha contatti più, questo, vi siete accapigliati, no. Non vi vedete più. No, anche perché questo fatto risale a, non so, 200 anni fa, che non è possibile. Ah, così lontano. Sì, perché ma lei non può fare una ricerca, nonno, capire, nonno. Lei potrebbe lasciare un messaggio, ci fossero dei biscugini lontani, che hanno a casa il piatto della cacciatrice. Pensate che straordinaria operazione sarebbe rimettere assieme la donna con la canna da pesca, la donna immagino con l'archibugio che andava a caccia, non so, se no con l'arco e le frecce, non ho idea, però non la sappiamo. E sarebbe... un'accoppiata che darebbe un valore enorme. Sarebbe bello, però. Dia qualche indicazione, dove potrebbe essere? Dove potrebbe essere secondo lei? Possiamo tornare a Montelupo, sentire se c'è qualcuno che ha visto questo piatto. Cioè, tra l'altro c'è un museo a Montelupo di queste ceramiche. Ci siamo stati, però veramente non l'abbiamo vista la cacciatrice. Ecco, ci sono tantissime ceramiche molto belle. Se qualcuno avesse notizia alle parti di Montelupo di un piatto di famiglia, più o meno immagino che sarà una 30-35 centimetri di diametro. 30-35. Sì, lo vedo a occhio. La tinta di fondo, il piatto è verde giallo. È verde giallino, sì. Sono le ocre che usavano. Vale il verde. Esattamente. Vale il verde. E quello che abbiamo fatto vedere a un esperto, sul retro ci sono dei tocchi di verde. E questo dice, e questo esperto ci ha detto, ma questo è un Montelupo autentico. È vecchissimo. Ci saranno degli esperti di ceramica, tant'è vero, noi lo sottoponiamo. Che l'avevo io attaccato al muro di casa, della sala, con quei ganci, ha visto che si comprano così. E lui mi ha detto, ma come, toglietelo subito da lì, quello lì è un Montelupo, me lo faccia vedere. Se cade si rompe, va messo su un supporto appunto, e sotto una vetrina, certo. Appunto. Allora senta io Lucia, messo... io devo dare la linea, resti in linea perché se da aggiungere qualcosa la riprendiamo. Ricordo, 800240024, questi ascoltatori hanno fatto l'operazione, non abbiamo chiesto, hanno scritto a asta.cervelliribelli.it e hanno mandato le foto dei loro oggetti. Vedete, oggetti semplici, che avevano per casa, hanno dietro delle storie fantastiche. Continuiamo con Lucia, tra un po' ci finirà la storia del piatto della donna con la canna da pesca del XVI secolo, una cosa molto rara. A tra poco. Melog. Io sono il marchese di Forlì. E io sono il conte d'Alba Fiorita. Sì, conte. Contea comprata. Io ho comprato la contea quando voi avete venduto il marchesato. Oh, basta. Sono chi sono. E mi si deve portare rispetto. Ma chi ve lo leva il rispetto? Voi siete quello. Fabiola, buongiorno. No, buongiorno. L'ha riconosciuta? Sì, certo. Di cosa si tratta? Allora, dunque, si tratta di questo. No, quello che abbiamo fatto ascoltare. No, non ho riconosciuto nulla. È la locandiera, lei... No, non ho riconosciuto perché non sento bene da questo telefono, purtroppo. Ah, ecco, e questo è il problema. Questo è il problema, purtroppo sì, via telefono ci sono dei problemi, proprio per questo ho detto chiamatemi a casa, ho preferito che sul cellulare. E comunque si sente male, non si sente purtroppo bene, no? Allora, andiamo avanti. E allora, si tratta di questo, no? Si tratta dell'oggetto che ho proposto. Sì. E questo oggetto è una partitura musicale, è un'opera di Johann Simon Mayr, che logicamente lei saprà che è il maestro di Donizetti, no? Sì. È un'opera completa, inedita ed autografa. E si tratta della locandiera. Sì, noi avevamo fatto sentire un pezzetto di locandiera. Purtroppo sì. Non l'ho sentito. Lo so, è un problema tecnico che spero qualcuno risolverà. Certo, sì. Certo. Lei come ha trovato questa partitura? Le spiego. Allora, questa innanzitutto, in breve, le dico, è stata scritta per l'inaugurazione del Teatro Popolare di Vicenza, teatro che poi non è mai stato costruito e fu rappresentata una sola volta nel 1800 al Teatro Berico di Vicenza. Beh, è già fantastico, allora, è già fantastico perché, pensate, sì. Questa è una partitura costruita sì. Per inaugurare un teatro mai costruito. Quindi certo. È rimasta inespressa quel teatro. Inespressa, perfetto, proprio giusto il termine. E io sono in possesso di tale opera dal nostro antenato diretto. A sua volta è passato in eredità diretta al mio nonno, che era il conte Gian Giorgio Zorzi Giustiniani, professore Gian Giorgio Zorzi Giustiniani. Ma avete un legame di parentela anche, diciamo, con l'autore della locandiera? No, con l'autore assolutamente no, però era amico del nostro antenato. Quindi diciamo che questo Mayr ha detto a suo bisnonno, guarda, c'ho questa partitura della locandiera, l'ho fatta per un teatro che non hanno mai costruito, siccome penso che tutto sommato... forse non lo so, te la regalo perché ci sono state anche altre copie probabilmente. No, le spiego, è stato così, diciamo che il Mayr era un buon conoscente di questo mio antenato, il conte Zorzi Giustiniani, a sua volta poi è passato in eredità al conte professor Gian Giorgio Zorzi Giustiniani, che lei probabilmente sicuro conosce, sicuramente, che è emerito e studioso del Palladio, che è insignito di premi internazionali, tra i quali, questo è il mio nonno, anche il premio nazionale Marzotto. Diciamo, è una gloria del Vicentino, così. Bravissimo, è proprio una gloria del Vicentino. Ecco, questa partitura però, che valore davate in famiglia quando ve la passavate? Perché nasce, se non volesse, allora, non nasce benissimo, perché nasce per un teatro, poi non hanno mai costruito, quindi c'è un grosso enigma su questa partitura. No, non è questo. Dopo è stata rappresentata appunto al Teatro Berico, sì, di Vicenza nel 1800, ma è stato, diciamo, custodito gelosamente dal mio nonno, no? E poi è stato tramandato a sua volta alle figlie, cioè a mia madre e a mia zia, e poi da mia madre e mia zia adesso è arrivato a noi. Però, come dice lei, sarebbe bello farlo conoscere nuovamente, ha capito, come rappresentarlo. Ma qualche maestro d'orchestra l'ha guardata questa partitura, ci ha trovato qualche particolarità rispetto a quello che è conosciuto? No, certo, io l'ho fatto vedere, adesso non faccio nomi, sì, ho fatto vedere a due direttori d'orchestra importanti, importanti? Certo. E beh, lo può dire, mica è male. Ma no, perché non ho, magari se lo dico lui non ha piacere che faccio nomi, magari lo posso fare poi. Ma è un nome altisonante, cioè un nome conosciuto, diciamo. Ma sì, è un nome conosciuto, un direttore di orchestra. Allora, un direttore di orchestra molto noto ha avuto in mano questa partitura e cosa ha detto? E ha detto che è una cosa molto bella, una cosa comunque che deve essere valorizzata, cioè non lasciata là. Ci sono delle annotazioni autografe su questa partitura? Certamente, è proprio scritta, autografata da Mayer, dal Simon Mayer. Quindi certo. è proprio diciamo contaminata con l'autore della partitura che ha fatto le annotazioni a mano, quindi ha un valore, ha un grosso valore, ma soprattutto certo, questo valore di enigmatico. Sì. Ecco, bravo, perché non è solamente il valore dell'oggetto in se stesso, ma il valore proprio dal punto di vista culturale, ha capito? Cioè, chi la prende, chi la vorrebbe eventualmente acquisire, diciamo prendere, acquistare, indifferente, e deve essere comunque un estimatore. Guardi, allora, questo oggetto, come gli altri oggetti, essendo stato classificato nel database di asta.cervelliribelli.it, certo, è all'attenzione degli esperti della casa d'asta, certo, Cambi, che le sa che è una delle più rinomate, quindi sì, gli daranno il valore che lei crederà giusto, effettivo. E parleranno con lei, questa è la procedura. Poi naturalmente chi va a questo tipo di aste, sono aste molto esclusiva già perché sa che cerca delle cose adeguate al suo livello di curiosità, al suo interesse culturale, a quello che ha coltivato di bello in tutta la vita. Sentiamo Mario, grazie Fabiola. Mario, buongiorno. Buongiorno. Con lei facciamo un salto enorme rispetto a una partitura ottocentesca. Lei è un oggetto di prototecnologia. Cos'è? Esatto, è una calcolatrice elettronica, la prima che uscì nel 1970, della Sanio, e ricordo come se fosse ieri quando l'ho vista in esposizione in un negozio, e mi è costata cara, però l'unica cosa che mi ha attirato tantissimo era la lettura delle 16 cifre, ovvero con due letture nel display avevo la possibilità di avere un prodotto di 16 cifre. Questo per il periodo era un qualcosa di veramente... Diciamo che allora una calcolatrice è grande più o meno quanto un mattone. Esatto, sì, molto molto meno di un mattone. Sì, un po' meno, però è bella grossa a vederla rispetto all'estetica di oggi. Senta, ma l'alimentatore che mette vicino è quello originale? Esatto, sì, era originale. Era originale anche la custodia. È un oggetto che a me è servito tantissimo, perché io allora fermo un attimo, lasciamo un attimo la linea, riprendiamo con questa calcolatrice che ci mostra un prototipo di tecnologia quando ancora era agli albori, quando la calcolatrice era qualcosa staccato comunque oggi dal nostro telefono, una delle tante possibilità, potenzialità che ha il nostro smartphone. Allora la calcolatrice si comprava, c'erano le grandi calcolatrici, quelle ancora analogiche con la manovella e tutto, poi cominciarono le prime calcolatrici elettroniche, quando cominciarono a esistere i display, quando appunto la tecnologia missilistica cominciò ad avere una sua ricaduta negli oggetti consumer di uso comune. Quindi c'è un nesso anche con la foto di Gagarin. Ci fermiamo un istante. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Melog 800240024, stiamo parlando della nostra asta dei cervelli ribelli, asta che segue e in qualche maniera sostiene Radio 24. È una gratitudine immensa per la mia radio, per il lavoro che sta facendo, per appoggiarci in questa nostra desiderio di dare una vita dignitosa a persone con cervelli diversi. Radiofonicamente noi stiamo trasformando gli oggetti che gli ascoltatori mandano tramite il sito asta.cervelliribelli.it in storie. Ogni oggetto è impregnato di un valore sottile, di un valore impalpabile, che è la storia che fa sì che qualcuno lo abbia tramandato fino ad oggi. Se non avessero storia, gli oggetti sarebbero distrutti, dimenticati, oltraggiati. Ma anche l'oggetto oltraggiato, come il ritratto di Gagarin, preso a coltellate dai neonazisti, che rappresentava l'Unione Sovietica, il socialismo reale, come la storia del piatto della donna pescatrice, oggetto di una lite di famiglia di due secoli fa, e cerchiamo la donna cacciatrice per unire due quadri di antiche ceramiche del XV secolo. Come un oggetto è la partitura della locandiera, la partitura che forse portava un po' sfiga, doveva essere stata scritta e composta per un teatro mai costruito, però ce l'abbiamo ancora con tutte le annotazioni dell'autore. E come la calcolatrice del signor Mario, calcolatrice del 1971, il miracolo della tecnologia. Ecco, lei ci ha spiegato, signor Mario, questa calcolatrice in realtà aveva la caratteristica di avere 16 cifre. Io non ho capito bene cosa significa, me lo spiega meglio. Cioè, le spiego, cioè, dovendo fare una moltiplicazione, sì, che comportava il risultato di 12, 13, 14 cifre, sì, ecco, con questa calcolatrice si potevano avere sino a 16 cifre di risultato. Quindi erano tante, erano. Esatto, erano tante per il periodo, ecco l'importanza appunto dell'oggetto. Ah, quindi era già un oggetto all'avanguardia, era come l'ultimo modello dell'iPhone, sì, capito? E le dirò di più, che questo oggetto nel mio lavoro, che lavoravo in banca, avendolo nella scrivania, nel cassetto, perché quello è un oggetto molto prezioso, mi è stato molto d'aiuto in determinate circostanze. Ma ai suoi tempi, faccio per far capire l'epoca, nel 1970-71, del 71, sì, i suoi colleghi che la vedevano con questa calcolatrice a 16 cifre, invidiati, cioè come lei fosse andato, che ne so, con un iPhone, esatto, di modello fra 20 anni e quelli hanno ancora il telefonino. Perfetto, esatto. Dice, beato te, dove l'hai comprata? Figuriamo. Sì. Mi era costata cara, però diciamo così mi è... Quindi era all'avanguardia della tecnologia dei bancari del tempo, figuriamoci. Esatto, ancora in banca c'erano le manovelle, le calcolatrici. Sì, quella manovella, quelle con la pallina che si girava più o meno, esatto, me la ricordo, sì, che usciva la striscia di carta. Era proprio un oggetto che ne faceva invidia, ecco. Diciamo, ha un suo valore storico nell'antiquariato della tecnologia, la calcolatrice Sanio del nostro amico ha un importante valore, quindi anche quella sarà valutata dagli esperti della casa d'aste cambi, anche perché ci sarà, lo dico come sorpresa, qualcosa che un po' somiglia, ci saranno dei prototipi, i primi oggetti costruiti da Steve Jobs. C'è un museo in Italia della Apple con dei pezzi esclusivi riconosciuti appunto dalla Apple, e saranno probabilmente messi all'asta, e ci sarebbe bene vicino anche la nostra calcolatrice, il nostro amico. Lucy, buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, io desideravo chiedere intanto un'informazione, se è possibile. Sì. Se siete anche interessati a delle litografie, stampe antiche, molto antiche, di Bellini, Verga. E poi ancora mi è stato donato in occasione delle mie nozze da parte di un cugino di mio marito, che era un nobile catanese, fiamingo, e dei porta, anticamente si usavano dei porta bottiglie scolpiti a mano in argento antico, bellissimi. Anche lei è di sangue blu, Lucy? Mia madre. Beh, comunque, ha un'ascendenza. Madre. Allora, se no, mi piace che l'aristocrazia italiana si sia mossa in quest'asta. Guardi, lei, Lucy, deve soltanto fare delle foto, le fa con il suo telefono, le manda al sito asta.cervelliribelli.it. Gli esperti, la casa d'asta cambi, li valutano. Vedono se, però questi oggetti ne sono legati comunque a una storia. Il portabottiglie come regalo di nozze ha un valore, se lei mi racconta qualcosa legato. Ci sono anche le bottiglie, attenzione. E quanti anni hanno le bottiglie? Prego. E quanti anni hanno le bottiglie? Antichissime, sono antichissime, antichissime. Sì, ma sua bisnonna non beveva mai perché le metteva vicino al letto? No, non erano della mia bisnonna, mi furono donate nell'81 quando io mi sposai ad Assisi con mio marito, che era un vedovo con tre figli, e mi furono donate da un cugino di mio marito che era un fiammingo, no? E mia suocera, fra l'altro, aveva ospitato in casa loro lo zar di Russia lo zar di Russia diede loro, fra l'altro, questo titolo nobiliare. Quindi diciamo, è molto interessante la storia, l'articoliamo un po' meglio, vediamo le foto, queste bottiglie potrebbero avere un senso, potrebbero essere state toccate, lambite, in qualche momento benedetta lo zar di Russia che ha regalato il sangue blu e l'ascendenza nobile alla sua famiglia, che è arrivata oggi tramite questo supporto di bottiglie mai bevute, un vino che non andava toccato probabilmente, ma aveva una sorta di scopo di augurare alla sua discendenza il fatto che guardami e non bermi. Interessante. Sentiamo Doni ha mandato un oggetto, lo sto vedendo adesso. Mi descrive cos'è, Doni, questo oggetto? Buongiorno, salve a tutti, buongiorno. Buongiorno. Vi ho mandato questa scultura dello Zebù perché mi è molto cara ed fa parte della mia tradizione e delle mie origini, perché io sono un ragazzo e tutti gli effetti italiano, però da piccolo sono di Madagascar, ho la mamma del Madagascar e questo oggetto rappresenta molto il mio paese. Cos'è, uno zebù rituale del Madagascar? Esattamente. Cos'è quello. Scolpito, il legno? È scolpito in legno ed è stato tramandato dalla mia famiglia in generazione in generazione e alla fine è arrivato a me. Ed è una tipica decorazione funeraria del Madagascar, perché lei deve sapere che da noi ogni tipo di culto, di festa, ogni matrimonio, ogni funerale viene celebrato con questo animale. Quindi questo zebù più o meno lei lo può datare, quante generazioni fa, da quante generazioni se lo portano dietro nella sua famiglia? Ma direi parecchie, perché comunque la famiglia di mia mamma è una famiglia molto antica in Madagascar, quindi anche il cognome che porto, che è il cognome di mia madre che porto, è una famiglia molto antica, quindi direi, non so datarle esattamente da quanti anni, però... Ma è possibile secondo lei fare una ricerca per capire più o meno a che secolo appartiene, se è 1700, potrebbe essere questo? Ma più o meno, faccio una ricerca veloce, però... No, secondo lei, diciamo, una valutazione sommaria, poi dopo lo vediamo con attenzione. Okay. Secondo me, forse un po' più giovane, però di quel periodo lì, più o meno. Primi dell'Ottocento, allora, probabilmente. Esatto, probabilmente. E questo zebù rituale che valore aveva in casa? Allora, questo zebù appunto è una decorazione funeraria, penso, del mio bisnonno. Ed è stato tutto tramandato da famiglia, cioè, cos'era, un animale psicopompo, cioè che accompagnava l'anima del morto nell'aldilà, aveva questo senso? Esatto, anche perché lei deve sapere che da noi ogni persona che muore, la sua importanza viene data appunto da quanti teschi di zebù vengono messi nella sua tomba, quindi lo zebù è anche un simbolo di ricchezza, perché a seconda, diciamo, più uno è ricco, più ha teschi di zebù nella sua tomba. Esatto, esattamente così, la funziona così. Di solito una ricchezza si guarda quanto denaro oggetti ha una persona, invece nel mio paese una persona viene visto per la sua ricchezza, per quanti zebù ha. Senta, mi ci sono le dimensioni di questo zebù di legno, perché io dalla foto non le vedo, me l'hanno mandata adesso su WhatsApp, più o meno quanto è grande? Allora, è grande più o meno, occhio e croce, una trentina di centimetri. Esatto, sì, a occhio e croce siamo così. Bene, Doni ci offre il suo zebù rituale che dimostra che la sua famiglia ha una solida tradizione. E ci sono altre persone, Carlo avrebbe un registratore a disco da dittafono, ma nella prossima puntata vi daremo ancora modo di sapere gli straordinari oggetti pieni di storia che ci danno i nostri ascoltatori per essere messi all'asta.